le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'accordo con la Grecia sembra ad un passo, ma a quanto pare, ancora una volta, sembra che non sarà raggiunto oggi, questa sera, comunque il vertice europeo per scongiurare un nuovo default. Su i mercati scende lo spread. Immigrazione, via libera alla missione europea per colpire i trafficanti di uomini sulle coste libiche. Nel 2014 627.000 richieste di asilo in Europa, scrive il Sole 24 Ore. A Roma il sindaco Marino resiste, attacca la destra, ma due assessori sarebbero pronti all'addio. Visita storica del Papa in un tempio valdese a Torino. Vi chiedo perdono, dice, per i comportamenti inumani che nella storia abbiamo avuto contro di voi. È morta nella sua casa di Ladispoli, vicino Roma, Laura Antonelli, da icona sexy degli anni 60 e 70, ai guai con la droga. Alla scadenza per il Parma, ritirate tutte le offerte per l'acquisto del club. È sempre più concreta l'ipotesi che riparta dalla Serie D. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura dunque ripartiamo dalla Grecia, è una giornata brillante quella sui mercati di oggi, in attesa che questa sera si riunisca il Consiglio Europeo straordinario. Sembra che l'accordo questa volta sia veramente ad un passo, anche se alcuni ministri in arrivo oggi dicono che no, non verrà raggiunto oggi. La BCE nel frattempo fornisce nuova liquidità alle banche di Atene, le cui casse sono esangui a causa della grande quantità di denaro ritirato nelle ultime settimane. Facciamo il punto iniziando proprio dai mercati. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Allora, questa mattina la situazione era partita davvero con i fuochi d'artificio. Il mercato ha fatto capire chiaramente che vuole questo accordo, almeno il mercato azionario, dopo le turbolenze delle ultime settimane. Siamo arrivati a vedere e a registrare stamattina guadagni nell'ordine di 3,5 punti che si sono concentrati su Parigi e Francoforte. Anche Milano andava molto bene, poi poco fa, sulla scia anche di queste prime indicazioni che stanno arrivando e che Simone appunto tu segnalavi, c'è stato un piccolo rallentamento. Tuttavia il quadro è ancora ampiamente positivo, Parigi e Francoforte che continuano a camminare di pari passo guadagnano 2,5 punti, Londra +1,11 e Milano guadagna 1,5 punti. Sono in recupero tutti i titoli che chiaramente hanno sofferto un po' nelle ultime settimane, le banche che sono particolarmente sensibili all'andamento dello spread, stamattina sono tutte in rialzo, anche se tra i migliori titoli di Piazza Affari notiamo settori differenti. Il migliore adesso è la Popolare dell'Emilia Romagna, guadagna 5 punti, bene Saipem +4,70 che beneficia di un rapporto positivo di Deutsche Bank. Questo gruppo è al centro di una serie di polemiche su una sua riorganizzazione societaria, adesso però è in recupero dopo la settimana scorsa che è stata difficile, +4,70, bene Mediolanum, bene Iux +3,5 e +4. Abbiamo in difficoltà alcune società che oggi staccano il dividendo, per cui trascurano, diciamo, la questione della crisi greca. L'altro termometro fondamentale sull'andamento di questa crisi è lo spread, noi chiaramente monitoriamo quello tra Italia e Germania, siamo a 135 punti base, quindi il calo è stato molto vistoso rispetto ai 160 punti che si erano rivisti la settimana scorsa. Ribadisco, il mercato dice chiaramente dove vorrebbe che andasse questa trattativa, Simone, per cui vedremo se avranno ragione gli investitori o meno. Grazie Deborah Rosciani, e per avere proprio un quadro per capire se le aspettative degli investitori saranno rispettate oppure no, facciamo un punto sulla trattativa con Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Beh, un po' di doccia gelata, bisogna dire, negli ultimi minuti negli ingressi dei ministri finanziari dell'Eurogruppo. Wolfgang Schäuble, ministro delle finanze tedesco, dice: non c'è nulla di nuovo, non abbiamo ricevuto proposte di sostanza dalla Grecia, non si può preparare un summit senza di esse. Devo dire, i ministri finanziari stanno abbastanza raffreddando le attese. Oggi il premier ellenico Alexis Tsipras è arrivato a Bruxelles e è stato incontrato dal presidente della Commissione Juncker, che dice: non so se ci sarà l'intesa. Juncker ha raffreddato parzialmente l'apertura della stessa Commissione su Twitter la Bruxelles definiva le nuove proposte elleniche una buona base. Sentiamo ora Tsipras. I think this is time for a substantial and viable solution. Tsipras che parla del piano, un piano che prevederebbe l'eliminazione della possibilità di prepensionamento già dal prossimo anno, un incremento dell'IVA sulle vendite al dettaglio, un incremento della tassazione sui redditi medio-alti, infine una tassa addizionale sulle aziende che fatturano oltre 500.000 euro annui. La situazione però è estremamente incerta. Il Financial Times, pensate, ha riportato che Atene avrebbe inviato il documento sbagliato ieri notte contenente la proposta finale. Secca la smentita da parte del governo greco, ma poi lo stesso quotidiano della City ha insistito e ha confermato dicendo che la confusione generata dall'accumularsi delle versioni definitive, che in realtà definitive non erano, ha irritato diversi paesi, quali ad esempio l'Irlanda, il cui ministro delle finanze Noonan prevede un extra vertice sulla Grecia giovedì, e lo spagnolo De Guindos è più esplicito: accordo impossibile oggi. E non è un caso forse che la cancelliera tedesca Merkel e anche il presidente francese Hollande hanno fatto dichiarazioni oggi nelle quali lasciano intravedere la possibilità di chiudere un'intesa finale sulla Grecia nei prossimi giorni, purché stasera si pongano le basi. In questi minuti prende via l'Eurogruppo straordinario, stasera sarà la volta dei leader dell'Eurozona a Bruxelles. Insomma, si prepara una lunga, lunghissima giornata. È tutto. Grazie Sergio Nava, e vedremo come si andrà a concludere questa giornata, anche se, come avete sentito, le premesse non sono ottime. Europa alle prese anche con altre questioni, e qua in realtà ci sono novità positive, innanzitutto quella dei migranti, con la riunione dei ministri degli esteri per dare il via libera alla missione sulle coste libiche, via libera che è arrivato molto rapidamente. La solidarietà non può essere un optional. Riassumono bene le parole del titolare della Farnesina Paolo Gentiloni la decisione storica dei ministri degli esteri dell'Unione Europea riuniti a Lussemburgo, in cui hanno lanciato ufficialmente la prima fase della missione navale europea EUNAVFOR contro i trafficanti. Secondo il capo della diplomazia europea Federica Mogherini, per la prima volta l'Unione Europea prende così seriamente l'immigrazione. L'obiettivo non sono i migranti, ma chi fa i soldi sulla loro sofferenza. Aggiunge. Ma il ministro Paolo Gentiloni sottolinea però che si tratta di un primo passo. Ed è fondamentale che si arrivi giovedì e venerdì a un'intesa anche più generale, in particolare sulla ricollocazione dei migranti che hanno diritto alla protezione internazionale. E su un altro fronte, quello della crisi ucraina, il Consiglio degli Esteri ha formalmente approvato il prolungamento delle sanzioni economiche nei confronti della Russia per altri 6 mesi. Le sanzioni scadevano a giugno. Immediata la risposta del Cremlino, la Russia risponderà seguendo il principio di reciprocità alla base dell'approccio russo sullo scambio di sanzioni, quindi idem fino al 31 gennaio 2016. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la politica ci porta oggi soprattutto a Roma, dove il sindaco Marino si è reso protagonista, e ve l'abbiamo raccontato ieri, di un attacco brutale nei confronti della destra, ma i problemi per la giunta restano tutt'altro che chiusi. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Le parole del sindaco Ignazio Marino contro la destra suscitano polemiche, tornino nelle fogne da cui sono venuti, ha detto il primo cittadino di Roma, invece di dare lezioni di democrazia e rigore a noi che siamo i naturali eredi. Insorgono i rappresentanti razziali del centrodestra per l'ex governatore del Lazio Francesco Storace, è davvero indegno il modo di fare dell'attuale sindaco di Roma, quanto ha urlato contro la destra è vergognoso e irresponsabile. Per Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, le dichiarazioni di Marino sono di un uomo disperato, scaricato da tutti, anche dal suo stesso partito. Per Maurizio Gaspardi, Forza Italia, il liquame è cresciuto con Marino e se ne deve andare. Polemiche che si incrociano con la tenuta della giunta, due assessori renziani sarebbero pronti all'addio, Guido in prota ai trasporti e Silvia Scozzese al bilancio, ma il presidente PD e commissario per Roma Matteo Orfini lo esclude, i due assessori sono ancora perfettamente in carica, mentre il ministro Maria Elena Boschi ribadisce la linea del premier Matteo Renzi: Marino deve saper governare, solo lui può sapere se se la sente. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Altro tema che è stato di forte polemica soprattutto all'interno del Partito Democratico nei giorni scorsi è stata la riforma della scuola. Forse oggi o comunque nelle prossime ore arriva il maxi emendamento del governo. Riprende domani in Commissione Cultura del Senato il cammino della riforma sulla scuola, ma la strada rimane ancora tutta in salita. In particolare scontro sulle 100.000 assunzioni di precari previste dal provvedimento. Il ministro delle riforme Maria Elena Boschi accusa le opposizioni di voler far saltare le immissioni in ruolo, Pollo a causa delle migliaia di emendamenti presentati al testo. Accuse rispedite al mittente da Selle. Boschi dovrebbe vergognarsi, questo governo imbroglia gli italiani, dice il coordinatore Fratoianni. Abbiamo chiesto a più riprese di stralciare la questione dei precari con un decreto che voteremmo anche domani senza emendamenti. Mentre 5 Stelle attaccano, Renzi usa i 100.000 precari per ricattare il Parlamento. Protestano anche i sindacati che per i prossimi giorni hanno organizzato iniziative di mobilitazione in tutta Italia in concomitanza con la ripresa dei lavori in Parlamento. Mentre il Codacons quantifica in 2 miliardi di euro la stangata per le casse dello Stato derivante dalla mancata assunzione dei precari, visto che sono già pronti migliaia di ricorsi. In questo clima dunque domani riprende l'esame del testo. Il ministro Boschi spiega che è prematuro parlare di ricorso alla fiducia per il DDL e che la sua approvazione potrebbe arrivare in tempi rapidi, ma questo solo se il Parlamento farà il suo lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Dalla scuola sui banchi del Parlamento alla scuola nei banchi veri e propri, oggi era l'ultima prova scritta dell'esame di maturità. Cosa si intende per guerra fredda? La fermentazione in scienze, le sedie di Van Gogh. Più o meno qualcosa sono riuscito a scrivere. Pensavamo che sarebbe uscita storia, invece hanno estratto e uscita filosofia. Non avevamo esattamente le domande che ci avrebbero fatto, naturalmente, però i professori interni per un certo senso ci hanno aiutato. Poteva andare peggio, chiaro. Poteva andare anche meglio, ma vabbè, insomma. E adesso manca soltanto l'orale. Scritti terminati per 500.000 di studenti italiani alle prese con la maturità. 3 ore stamattina per rispondere ai quesiti della terza prova, il cosiddetto quizzone, preparato dalle singole commissioni d'esame. Compito diverso a seconda degli indirizzi di ogni istituto, per un massimo di 5 domande, aperte o a risposta multipla, in particolare sugli argomenti studiati nell'ultimo anno. La grande attesa per l'orale, mentre si aspettano i risultati degli iscritti, che usciranno a breve. Da domani adesso non sappiamo assolutamente niente su nessuna prova. Adesso c'è l'orale quando? 25 alle 8. Poche ore per ripassare, ma meglio così, me la tolgo subito e poi via, poi si va. Se io tipo sono il 2 luglio e poi finiamo il 5 luglio perché siamo il 19. Poi mare. Ma esatto, mi dimentico tutto e basta. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La 2 giorni torinese del Papa ha visto questa mattina un evento storico, la visita ad un tempio valdese. Caro fratello Francesco, benvenuto. Siamo rimasti lietamente sorpresi quando abbiamo saputo che questo incontro si sarebbe tenuto qui a Torino e nel nostro tempio. Così il pastore valdese di Torino, Ribet, ha accolto Bergoglio, primo pontefice nella storia a varcare le porte del Tempio. Il Papa si è detto rattristato per le divisioni tra cristiani e ha chiesto perdono per le colpe commesse dai cattolici. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. Evangelizzazione e servizio agli ultimi, poveri, migranti, i terreni per lavorare insieme. A chiudere la storica visita, la recita del Padre Nostro. Poi il pranzo con i familiari d'origine in arcivescovado, la parentesi privata di questa 2 giorni del Papa a Torino. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dal Piemonte arriva una brutta storia di cronaca. Una donna legata e imbavagliata a scopo di rapina, una donna di 84 anni nella sua casa tra Alba e Bra, è morta nel tentativo di liberarsi. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziana è caduta dalle scale dopo che i malviventi se n'erano andati ed è appunto ha perso la vita dopo aver battuto la testa. Ovviamente stanno indagando i carabinieri. Passiamo a tutt'altro argomento, passiamo alla situazione del Parma che, come già vi dicevamo nei titoli, probabilmente dovrà ripartire dalla Serie D. Abbiamo con noi Dario Ricci in studio. Dario. Eccoci Simone. Beh, l'ora X è per le 14, quindi proprio l'inizio di tutti i convocati, perché a quel punto scadrà l'ultimo termine per la presentazione di eventuali offerte d'acquisto. Ma di fatto, dopo il ritiro ieri sera della cordata di Giuseppe Corrado, presidente e amministratore delegato, lo ricordiamo, della The Space Cinema, questa mattina è stato ufficializzato il ritiro dell'ipotesi di acquisto, dell'interesse d'acquisto, anche da parte della cordata guidata dall'ex campione di baseball americano Mike Piazza. Quindi, a meno di colpi di scena a questo punto improbabilissimi, se mi è concesso il termine, nessuno manifesterà l'interesse di acquisire il Parma, che quindi dovrà ripartire dalla D. Perché questo disinteresse? Non certo perché non viene tenuto in in giusto conto il prestigio della squadra rosso-blu, ma soprattutto perché si tiene in giusto conto il debito che accompagna questa società. Certo. Siamo a 22,6 milioni di euro per il solo debito sportivo, ma poi soprattutto pesano gli 82 milioni di euro che dovrebbero essere saldati nei successivi 3 anni e che sono soprattutto il frutto di quasi un centinaio di contratti che la precedente gestione aveva firmato con diversi quindi giocatori. Quindi 100 milioni di debiti complessivamente, e si capisce bene che qualcuno fatichi ad accollarseli. Sì. Prima di chiudere con te, Dario, un breve punto sul calciomercato invece. Beh, calciomercato che ha un po' il Milan sotto i riflettori, perché dopo le delusioni di questi giorni, ultima delle quali l'arrivo di Kondogbia proprio all'Inter, si guarda al diavolo, alle sue future mosse e anche alla difficile relazione con questo fondo Doyen. Pochi istanti fa la dichiarazione del presidente del Napoli, De Laurentiis, che ha attaccato frontalmente questo legame tra il fondo che fa capo in qualche modo al Mr. B e i rossoneri, insomma. Relazione sicuramente tutta da comprendere e da sviluppare, ma poi gli effetti pratici sul mercato è che il Milan adesso è sulle tracce di almeno di un centravanti, sta seguendo Bacca, il colombiano del Siviglia, ma non è certo l'unico, basti pensare che anche la Roma è vicinissima allo stesso giocatore, quindi altri duelli e Galliani spera questa volta di risolverli a proprio favore. E grazie al nostro Dario Ricci, questi sono tutti argomenti tra l'altro che ritroveremo in tutti i convocati a partire dalle 14. Noi tra poco ci ritroviamo, torniamo a parlare di immigrazione, ci sono innanzitutto i dati e la mappa molto bella, devo dire la verità, fornita oggi dal Sole 24 Ore e che racconta un po' di tutta Europa, cercheremo di darvene un'idea ovviamente radiofonica, se volete la mappa vera e propria comprate evidentemente il Sole 24 Ore in edicola, parleremo di questa missione che ha avuto il via libera oggi per il pattugliamento, il controllo delle coste libiche e poi non ne abbiamo parlato finora ma ne parleremo più avanti anche perché ne ha parlato a lungo Gianluca Nicoletti, parleremo di Laura Antonelli, ma prima il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sulla Grecia i ministri in arrivo all'Eurogruppo smorzano gli entusiasmi sulla possibilità di un accordo questa sera, ma non quelli dei mercati che sono positivi, Milano guadagna l'1,83% e vanno molto bene, Parigi più 2,73%, Francoforte più 2,8%. Immigrazione, c'è il via libera della missione europea per colpire i trafficanti di uomini sulle coste libiche. A Roma il sindaco Marino resiste, attacca la destra, ma due assessori sarebbero pronti all'addio, anche se il commissario del PD a Roma Orfini smentisce. La visita storica del Papa in un tempio valdese a Torino. Vi chiedo perdono, dice, per i comportamenti inumani che nella storia abbiamo avuto contro di voi. Morta nella sua casa di Ladispoli, vicino a Roma, Laura Antonelli, da icona sexy degli anni 60 ai guai con la droga, ne parleremo tra poco. Intanto andiamo all'estero e andiamo in Afghanistan, dove questa mattina c'è stato un assalto al Parlamento. Almeno 9 esplosioni hanno fatto tremare questa mattina il Parlamento afghano. Ancora incerto è il bilancio delle vittime, una 30 i civili feriti, come confermato dal ministro della salute di Kabul, mentre le Nazioni Unite in Afghanistan riferiscono anche di 2 morti, una donna e un bambino. L'attacco è stato rivendicato su Twitter dal portavoce dei talebani, ma sono stati uccisi 7 attentatori, riferisce il capo della polizia locale. Un terrorista si sarebbe fatto esplodere in una macchina proprio nei pressi dell'ingresso principale del Parlamento, mentre un comando di 6 persone si sarebbe asserragliato in un edificio vicino e avrebbe cominciato a sparare. La TV locale ha mostrato in diretta l'emiciclo della Camera Bassa avvolto dal fumo con i deputati in fuga. Chiaro il messaggio dei talebani al governo, che avrebbe dovuto presentare questa mattina il neo ministro della difesa. È da fine aprile infatti che il gruppo terrorista sta sferrando la sua offensiva di primavera, come l'hanno definita in molti, con una serie di attacchi su Kabul nella provincia settentrionale del paese, dove il governo ha già perso il controllo su alcuni distretti. Anche la città di Kuduz, sempre nel nord, starebbe per cadere nelle mani dei talebani. Camilla Romana Bruno, Radio 24, il Sole 24 Ore. La missione sarà operativa dalla prima settimana di luglio, ma la piena operatività è attesa per il 20 luglio. Parliamo di questa missione che si chiama EUNAVFOR, con navi europee che si schiereranno nelle acque internazionali davanti alla Libia per sostanzialmente colpire la rete di trafficanti e i trafficanti di uomini medesimi. Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa, collaboratore del Sole 24 Ore. Gianandrea, bentornato ai nostri microfoni e buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Che efficacia può avere secondo te questa missione? Ma per ora molto poca, nel senso che la prima fase prevede un impiego di una mezza dozzina di navi e sottomarini, devono raccogliere informazioni di intelligence. In realtà l'intelligence e le informazioni le abbiamo già, l'Italia per prima, ormai sono anni che impiega satelliti, agenti segreti, sistemi di intercettazione, le nostre navi, i nostri sottomarini, per raccogliere informazioni sulle organizzazioni dei trafficanti. Il problema è che l'Unione Europea ha annunciato ormai da tempo questa missione, informando di fatto il nemico di quello che vorremmo fare, ma le fasi importanti di questa missione, che sono la fase 2, cioè il contrasto ai barconi e la distruzione dei barconi in mare, e la fase 3, che prevederebbe addirittura azioni sul territorio libico, restano condizionate delle autorizzazioni, sia tanto in ambito UE, bisogna capire quali paesi ci stanno e cosa sono disposti a fare sul piano militare, e poi anche si dice da autorizzazioni delle Nazioni Unite, che per autorizzare appunto un'azione sul territorio, sulla costa libica contro i trafficanti, l'ONU dovrebbe autorizzarlo, e l'ONU prevede che ci sia un governo di unità nazionale in Libia che dia il via libera e sia disponibile a questo. Insomma, quindi tutto condizionato, quindi Gianandrea, tutto condizionato all'opera che sta cercando di mettere in atto Bernardino León, che è l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, della quale però ancora fatichiamo a vedere gli esiti. Ma diciamo che gli esiti non ci sono, ci sono anche poche speranze al momento che si realizzi, perché se anche dovessero trovare un accordo di facciata, poi in un territorio dove ci sono centinaia di milizie che obbediscono solo ai loro capi tribali, pensare che questo accordo, qualora si concretizzasse teoricamente, avesse anche una sua dimensione concreta, pratica, è molto aleatorio. Il rischio qual è? Che si faccia una missione che in realtà non combina nulla, perché distruggere, affondare i barconi dopo aver raccolto i migranti significa soltanto affondare delle barche in attesa che altre salpino. Quindi insomma gli interrogativi sono ancora tanti, e per ora nessuno sembra dare delle risposte concrete anche sul piano militare su come fare a distruggere questi barconi in una maniera che non provochi vittime tra i civili, danni collaterali, e anche la valutazione militare se ha senso impiegare aeroplani, navi o forze speciali per andare a bucare dei canotti, se mi passi la battuta. Sì. Gianandrea, quindi per tornare alla prima risposta che ci hai dato e per aiutare anche i nostri ascoltatori a capire, al momento questa missione prevede solamente il monitoraggio, ci vorranno autorizzazioni successive, cioè con un altro consiglio degli esteri, se non sbaglio il 20 di luglio. Il 20 luglio, ed è quello che dovrà decidere se poi si potranno effettivamente colpire i famosi barconi, no? Il 20 luglio si dovrebbe decidere, il condizionale d'obbligo, il passaggio alla fase 2, cioè la fase 1 raccolta informazioni di intelligence, fase 2 contrasto in mare, sempre in acque internazionali, ai trafficanti. Cosa questo poi voglia dire nella pratica? Ce lo dovranno spiegare, in attesa di un'autorizzazione formale internazionale delle Nazioni Unite per una fase 3 ancora più ipotetica. Sì, che è quella che prevederebbe l'intervento a terra proprio per colpire, i trafficanti. Da questo punto di vista, tra l'altro, come sappiamo, la Libia al momento è divisa in molte parti, diciamo, ma prevalentemente tra due governi, uno di Tobruk, internazionalmente riconosciuto, e poi c'è quello di Tripoli. Uno dei due governi ha detto: se voi entrate nelle nostre acque e andate a colpire i trafficanti, noi spariamo alle navi. Sì, allora l'hanno detto tutte e due. Tobruk due settimane or sono ha detto che non accetterà un'intrusione di forze militari straniere sul territorio libico, di cui Tobruk si sente comunque il governo legittimo. E anche quello islamista di Tripoli proprio l'altro giorno ci ha fatto avere un'informazione importante, cioè che c'è una delegazione tecnica europea, non meglio specificata, che si è recata in questi giorni a Tripoli a Misurata per chiedere una collaborazione nel contrasto ai flussi di migranti. E però ha ribadito il portavoce del governo di Tripoli che dal loro punto di vista è folle un intervento militare contro i barconi e contro i trafficanti, che loro si difenderanno militarmente da qualunque intrusione sul loro territorio di forze militari straniere. Quindi un ulteriore problema. Ti ringrazio, grazie a Gian Andrea Gagliani, direttore della rivista Analisi Difesa, collaboratore del Sole 24 Ore e come sempre molto chiaro. Saluto Alessia Di Pascale dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno Di Pascale, benvenuta. Buongiorno. L'abbiamo chiamata perché oggi firma insieme a Rossella Cadeo del Sole 24 Ore questa bella pagina che ci consegna, e rimaniamo sul tema, una vera e propria mappa dei migranti e soprattutto dei richiedenti asilo. Una pagina che consiglio a tutti, a dire il vero, non perché siamo nello stesso gruppo editoriale, ma semplicemente perché chiarisce tutta una serie di punti, a partire dal contestatissimo accordo Dublino, che è uno degli elementi che crea moltissimi problemi in questa fase, moltissimi contrasti tra gli stati europei. Però le chiederei di aiutarci a dare qualche numero, in senso buono evidentemente, sui rifugiati in Europa, o meglio sui richiedenti asilo, su quanti l'hanno ottenuto. Ci può dare una mano ad inquadrare il fenomeno nel suo complesso e soprattutto come si è configurato nel 2014, che è stato un anno particolarmente intenso? Sì, allora io penso che sia importante in questo senso l'articolo, è un po' questo obiettivo, fare chiarezza appunto tra dei concetti che sono utilizzati spesso come sinonimi. Si parla di immigrazione, migranti, come se ci si riferisse ad un'unica categoria. In realtà ci troviamo di fronte a una molteplicità di situazioni diverse che possono quantomeno essere ricondotte a due categorie più grandi, che sono appunto i migranti economici e i richiedenti protezione internazionale. La interrompo perché abbiamo un problema audio che gli ascoltatori avranno sentito benissimo. Noi qua tra l'altro sentiamo di solito un pochino meglio di come si senta in radio, a meno che non abbiate il DAB, e veramente devo dire la verità, si sente male. Facciamo così, ci fermiamo un attimo. Prima di fermarci sentiamo i nostri servizi, perché ce li richiedete a gran voce tra l'altro su Laura Antonelli. Dopodiché poi andremo in pausa e riprenderemo con lei per farci raccontare i numeri. Ma parliamo di Laura Antonelli. Ma scusi, ma lei chi è? L'agenzia 3 giorni fa mi disse di presentarmi. Aveva fatto la richiesta alla povera signora perché avevate bisogno di una cameriera, no? Io mi chiamo la Barbara Angela. Era il 1973 quando per Laura Antonelli arrivò la fama. Con il ruolo di Angela, la sensuale cameriera in malizia di Salvatore Samperi, che sbancò il botteghino con quasi 7 miliardi di incasso, diventando anche un cult, da semplice attrice l'Antonelli si trasformò in una vera icona sexy. Per quel ruolo vinse il Nastro d'Argento e il Globo d'Oro della stampa estera. E dopo le pellicole erotiche arrivarono i ruoli anche in film d'autore, come La Divina Creatura di Giuseppe Patroni Griffi e L'Innocente di Luchino Visconti. Laura Antonaz, questo era il suo vero nome, era nata a Pola, in Istria, nel 1941 e aveva preso il diploma da insegnante di educazione fisica a Napoli, dove si trasferì con la famiglia prima di andare a Roma. Buona sorte ebbero anche alcune commedie da lei interpretate, come Il Merlo Maschio di Pasquale Festa Campanile, Sesso Matto di Dino Risi e Mio Dio come sono cadute in basso di Luigi Comencini. E fu sul set di Gli Sposi dell'anno secondo che incontrò Jean-Paul Belmondo, con cui ebbe un'intensa storia d'amore. Al periodo d'oro seguì presto il declino per il suo coinvolgimento in una storia di droga. L'attrice venne arrestata nell'aprile del 91 nella sua villa di Cerveteri, dove furono trovate alcune dosi di cocaina. E dopo una condanna in primo grado a 3 anni e 6 mesi di carcere per spaccio di stupefacenti, visse una lunga odissea giudiziaria che la portò all'assoluzione. Poi, durante la lavorazione del remake di Malizia, diretto sempre da Samperi e che si sarebbe rivelato un flop, si sottopose alle cure di un chirurgo estetico che le deturparono i lineamenti del viso. Chiese un risarcimento miliardario, ma dopo 9 anni di odissea ottenne molto poco. Nel frattempo sprofondò in una situazione di profondo disagio psichico e fu l'amico Lino Banfi nel 2010 a fare un appello per lei, che viveva con una piccola pensione, per l'applicazione della legge Bacchelli. Ma ormai Laura Antonelli voleva soltanto essere dimenticata. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È questo allora? È questo? È questo? O è questo? È questo? Te lo dico io qual è? È questo il libro che volevi vedere? No, non me le sono levate, va bene? Sei contento? Ti serve altro? Dici Laura Antonelli e la rivedi in quelle sale piene di fumo e di ragazzini con un filo di barba in piena tempesta ormonale. Sullo schermo, in cima a una scala con un civettuolo grembiulino che fa vedere e non vedere, c'è lei che finge di essere arrabbiata con il nostro eroe, completamente perso dietro a quel frusciar di sottane e di reggicalze. Nel film Alizia, lei è la cameriera di famiglia e lui, Alessandro Momo, è il padroncino viziato, avviato con quella nave scuola nell'inesplorato mondo dell'adolescenza. Ricordando Laura Antonelli non si può non ritornare su quella scala. Certo, poi ha fatto tanti altri film con attori e registi importanti, ma purtroppo per lei è rimasta ferma nell'immaginario collettivo a quel mitico fotogramma di Malizia. Ci piace ricordarlo, quell'attimo di spensierata euforia, perché poi la sua vita, quasi per contrappasso, è stata molto meno leggera, finendo quasi dimenticata. Purtroppo a ripescarla dall'oblio ci pensava la cronaca, con brutte notizie di droga, processi, malattia e solitudine. Tutto quello che di Laura Antonelli non avremmo mai voluto sapere. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per parlare di mercati e poi appunto proviamo a ripescare il tema dell'immigrazione. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Tutto rinviato a quanto pare a giovedì per la Grecia, anche se stasera si riunisce l'Eurogruppo, bene i mercati. Via libera la missione europea per colpire i trafficanti di uomini sulle coste libiche, e però in questa prima fase si occuperà solamente di monitoraggio. A Roma il sindaco Marino resiste e attacca la destra, dice tornate nelle fogne, due assessori sarebbero pronti all'addio. La visita storica del Papa in un tempio valdese a Torino, vi chiedo perdono, dice, per i comportamenti inumani che nella storia abbiamo avuto contro di voi. La borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Dunque Alessia Di Pascale dell'Università degli Studi di Milano, vediamo se riusciamo ad ottenere una linea decente, eccoci di nuovo, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, sì, la sentiamo abbastanza bene, non straordinariamente ma abbastanza bene. Ci dica allora qualche numero sui richiedenti asilo e i rifugiati in Europa. Sì, allora il numero dei richiedenti, tecnicamente parliamo di protezione internazionale, che è una nozione più ampia, che non include soltanto i richiedenti asilo ma anche coloro che richiedono l'altra forma di protezione prevista in Europa, appunto la protezione sussidiaria. I numeri a disposizione, messi a disposizione in particolare da Eurostat, mostrano un incremento veramente sensibile, con un quasi raddoppio nel giro di pochi anni delle domande. Le domande dello scorso anno sono state complessivamente quasi 630.000 e il tasso di accoglimento di queste domande varia sensibilmente, diciamo, da nazionalità del richiedente. Quindi abbiamo alcune nazionalità per cui il tasso di accoglimento è estremamente elevato, in particolare i siriani e gli eritrei, ad altre nazionalità dove invece le domande sono appunto accolte soltanto in numero molto limitato. Come in effetti normale che sia, Di Pascale, no? Evidentemente. Se... Sì, assolutamente. Certo. Assolutamente. Senta, nel raffronto tra i vari paesi europei mi sembra che spicchi la Germania. Assolutamente sì, la Germania è il paese, l'anno scorso sono state presentate circa il 32% delle domande, l'Italia si assesta intorno al 10%, ma ci sono comunque alcuni paesi, appunto la Francia, l'Italia, la Svezia, la Germania, dove si concentrano prevalentemente le domande. Le domande principali comunque principalmente sono rivolte verso la Germania, non c'è raffronto tra i tassi, appunto il 10% e il 30%, sensibile la differenza. In Svezia anche abbiamo la presentazione di circa 13% delle domande, e poi abbiamo invece paesi dove le istanze sono molto molto meno numerose, quindi c'è un'assoluta differenza tra i 28 paesi. Allora, l'audio non è buono come speravamo. Io la ringrazio intanto, Alessia Di Pascale dell'Università degli Studi di Milano, che ha collaborato con Sole 24 Ore nel realizzare questa mappa che trovate oggi in edicola, dove non è solamente una mappa, ma ci sono anche i dettagli, una serie di spiegazioni su tutti gli argomenti che abbiamo trattato e che stiamo trattando in queste settimane. È lunedì, il giorno di Daniele Biacchessi. Oggi ci parla della strage di Ustica. Ricorrono quasi 35 anni. Il 27 giugno, tra pochi giorni, ricorre il 35esimo anniversario della strage di Ustica. Si ricorda l'abbattimento di un DC-9 della compagnia Etavia da parte di aerei militari di nazionalità non ancora identificata sui cieli tra le isole di Ustica e Ponza, in uno scenario da guerra fredda. In quella calda sera di fine giugno persero la vita i passeggeri e il personale di equipaggio, 81 persone. Per loro e per i loro familiari, 35 anni dopo, non vi è alcuna giustizia. In questo lungo tempo è accaduto di tutto, compresa la dignità del nostro paese sprofondata negli abissi del Mar Tirreno. È fallita una compagnia aerea, l'Italia, accusata di far volare carrette del cielo. Gli uomini degli apparati di sicurezza italiani e stranieri hanno organizzato vergognosi depistaggi. Sono sparite prove, documenti importanti, sono morti testimoni in strani incidenti. I pochi giornalisti che si sono occupati del caso sono stati minacciati e controllati. Tutto è accaduto per occultare una verità racchiusa in 5.000 pagine dell'inchiesta del giudice Rosario Priore. L'indagine accerta la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il trasponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo le autostrade del cielo percorse dal DC-9. I processi penali contro i generali dell'aeronautica e uomini degli apparati dello Stato sono finiti con assoluzioni. I processi civili invece hanno condannato lo Stato a risarcire i familiari delle vittime per gli occultamenti di prove e verità. E oggi i familiari chiedono la desecretazione piena dei documenti annunciata l'anno scorso con molta enfasi dal Premier Matteo Renzi, che al momento ha prodotto materiale inutilizzabile a livello processuale e nemmeno importante sul piano storico. Eppure lo Stato italiano, il nostro Stato, era a conoscenza di ciò che è accaduto a 81 persone il 27 giugno del 1980, intorno alle 21. Lo scrivono i giudici della Cassazione in sede civile. Già, la verità. Ustica è il paradigma italiano dove la verità non fa mai i conti con la giustizia. Oh, prima del traffico una notizia attesa o forse no. L'assessore capitolino ai trasporti Guido Improta si è appena dimesso. Vi ricordiamo che erano voci che circolavano da alcune ore e il commissario del PD a Roma Matteo Orfini aveva detto: nessuno dei due assessori, né Improta né quello al bilancio, hanno intenzione di dimettersi. Traffico.